Allora, cosa deve fare lo sappiamo tutti, cioè deve vincere 4-0. La mia sensazione è che per farlo l'Inter debba provare una formula diversa, un po' furba e non debba sbagliare niente. Allora, la prima cosa è che Leonardo in conferenza stampa oggi parli apertamente di una partita interlocutoria, parli di una partita nella quale sostanzialmente l'Inter viene a prepararsi e che consideri lanci quasi come un messaggio. Noi dobbiamo giocare contro il Parma domenica e non siamo qui per pensare di vincere questa partita. Sì, cioè, dimesso, no? Già. Sì, cioè la vita comunque fuori, è bella. La vita esatto, continua. La vita cose. Continua, va tutto bene, a Milano c'è il sole e non ci sono le zanzare. E l'AFA e quindi per essere più in forma nella rimonta contro il Milan questo è un obiettivo che non abbiamo più questa è la cosa parallela a questa bisogna che i giocatori entrino in campo e al momento della stretta di mano dopo la musichetta debbano già fare i complimenti all'avversario tipo vabbè insomma noi l'abbiamo vinta l'anno scorso adesso tocca a voi. Noi abbiamo eliminato il Chelsea l'anno scorso, se passa il Chelsea chiamami che ti do qualche suggerimento, cioè far capire allo Schalke che l'Inter è lì in vacanza, cioè proprio belli rinunciatari, fare i primi 20 minuti a rallentatore, cioè l'Inter non ha, qui è molto più seria, l'Inter non ha 90 minuti di fuoco nelle gambe e quindi sarebbe quasi impensabile una partita da 90 minuti con il sangue agli occhi. E allora giocare in maniera abbastanza rilassata i primi 20 minuti e in modo da convincere anche con il gioco lo Schalke che non ci credono più. A quel punto però bisogna fargliene uno, cioè in maniera così, senza quasi farsene accorgere, fargliene uno subito, tac, ma al contrario di quello che si dovrebbe pensare normalmente, non andare subito a prendere la palla quando la palla va in porta, considerarlo come una normalità. Sì, abbiamo salvato l'onore. Sì, esatto, ne abbiamo fatto uno, all'andata avete vinto voi, questa la vinciamo noi, ma fa niente. Andare negli spogliatoi rigorosamente sullo 0-1 e non di più, in modo che comunque loro non abbiano quel quarto d'ora per ricalibrarsi, cioè loro devono davvero considerarsi all'ultimo comunque chilometro. Comunque sicuro, certo. Sì, esattamente. E giocare anche i primi 5-10 minuti, non di più, perché altrimenti non hai più tempo, certo. Della ripresa molto sereno e molto rilassato. A quel punto io uso un po' una metafora un po' forzata, cioè devi mettere la musica di Apocalypse Now, devi mettere la cavalcata delle Valchirie e devi fare 30 minuti come se tu sapessi di dover morire domani e andare dentro e fargliene tre.